Il punto di Stefano Folli. E così stamane avremo il decreto cosiddetto Salva Roma. È inevitabile per non gettare la capitale d'Italia nel buco nero del fallimento economico, ma non è un rimedio a lungo termine. Senza una vera e propria rivoluzione nell'amministrazione del Campidoglio all'insegna dell'efficienza, il problema si ripresenterà fra breve e ci sarà bisogno di un altro salvataggio a fondo perduto. Insomma, questo decreto è la vittoria di nessuno, non del sindaco Marino, che dovrebbe distinguersi in tutto dai suoi predecessori e invece non ci riesce nemmeno nei toni, non del premier Renzi, che si trova a mettere la firma su un decreto che risulta quasi estorto e che lui, se potesse, mai e poi mai vorrebbe approvare. E senza dubbio non dei sindaci nel loro complesso. Si è fatta molta retorica sulla carica innovativa degli amministratori comunali a cui appartiene Marino e da cui proviene Renzi. In realtà non è così, ognuno ha i suoi problemi, anche gravi, e la primavera dei sindaci sembra proprio un'illusione.